init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. In streaming su sharewood.it, Radio Sandonà 102.2 è il terzultimo appuntamento per Music for You. Cala la tristezza sul nostro studio. Cala la tristezza sul nostro studio, cala l'allegria nei vostri cuori, gentili radioascoltatori, finalmente ci leviamo dal vostro palinsesto. Non siete felicissimi di questa cosa? Quella che avete appena sentito è la voce di Alvise Favotto, l'intelligenza che entra in un cervello ed entrambi entrano nella nebbia. Esatto, l'intelligenza che entra in un cervello e improvvisamente si sente sola. Al mio fianco, o più che altro davanti a me, Daniele Terzariol, che invece di questo duo rappresenta la parte pensante. A dire il vero ho alcuni dubbi in merito, ma in ogni caso siamo entrambi d'accordo che stiamo in radio. Sì. E stiamo per fare un'altra puntata sulle etichette, dopo i clamorosi successi. Dopo che il pubblico a gran voce ce le chiede, fateci puntate monografiche sulle etichette e noi ve le sforniamo come il pane al mattino. Come migliore macellaio al quale chiedete il taglio perfetto, ci pensiamo noi. Quattro tagli, sto giro. I vostri Miracle Blade di fiducia vi generano una puntata sulla 4AD. 4AD Records, etichetta indipendente dal 1979 sulle scene, portata da un certo, questo si chiama come i Watt, Ivo Watts Russell e Peter, come una regione, Kent. Esattamente, Ivo Watts Russell, tra l'altro poliedrico, nel senso che gestisce la 4AD, ma è stato anche cantante e compositore, ne parleremo più diffusamente durante la puntata. 4AD, cosa dire? Nel catalogo 4AD in sostanza c'è quanto di meglio potete aspettarvi dalla wave dei tardi anni 80 e dei primi e dei tardi anni 80, devo dire. E poi soprattutto quello che c'è di più nuovo in qualche modo nel panorama mondiale attuale, quantomeno europeo. Una delle prime etichette post-punk, dice la nota sotto il mio bel naso allargato a sostanze lisergiche, è parte della Vegas Group assieme a Matador, che abbiamo già fatto, un'etichetta già affrontata, Rough Trade, ma guarda caso pure quella l'abbiamo affrontata, ce ne manca una, le XL Recordings. Eh sì, e per quest'anno invece non ve la faremo mai, perché? Perché andiamo in vacanza. È che non sentite il rumore del gesto dell'ombrello e non riesco a farvelo sentire, perché sennò altrimenti ve lo piazzavo sul microfono. Perché non abbiamo un effetto qui in studio che dia uno schiocco, ma torniamo a parlare della 4AD. 4AD, si diceva, nel suo roster e nella storia di 4AD passano dei gruppi ineffabili o fantastici, cioè metteteci voi un aggettivo, però squisitissimi anche, la classica cosa che si può dire degli involtini. Il nome più probabilmente da risalto alla 4AD, e infatti noi non lo mettiamo, sono i Bauhaus. Bauhaus, sì. Che licenziano un paio di dischi per 4AD e sono a oggi la più grande vendita discografica di 4AD. Era nata con un altro nome. Eh sì. Era nata con il nome Axis Records, poi è dovuto cambiare per omonimia. Il nome attuale viene da un bollettino pubblicitario, scopriremo poi che bollettino è, che flyer. Intanto partiamo con la musica, perché di musica ce ne sarà parecchia. Sì, perché il catalogo 4AD è sterminato ed enorme, tra gruppi ancora in sella e gruppi che invece sono passati di là solo per un piccolo periodo. Cercheremo di darvi un assaggio di tutto e per questo dovremo stare più zitti del solito. Ringraziateci, perché secondo noi è un grande gesto per l'umanità. Infatti siamo così svelti che siamo già al primo pezzo. Piano, sì. Magic. Piano Magic, rappresentativi per 4AD Records, fondati nel 1996 da Glenn Johnson e tutta un'altra serie di bei ragazzi a Londra, in Inghilterra. Johnson, tra l'altro, è l'unico che rimane trio originale nella band attuale. Come la definiremo la musica dei dei Piano Magic? Beh, le Piano Magic bisogna dire innanzitutto che fanno parte della seconda ondata di 4AD. 4AD è una prima ondata wave che spazia anche sull'elettronica e più sul post-punk, che prende dai primi anni 80, e ad esempio i gruppi più rappresentativi possono essere i Cocteau Twins, gli stessi Bauhaus e Dead Can Dance. Piano Magic arrivano in un secondo momento e segnano un po' il rinnovamento della 4AD, perché si spazia a qualche altro genere. Era il 2000 e hanno rilasciato addirittura la soundtrack per un film spagnolo di Bigas Luna. Pensati te quante cose si imparano da internet. Sì, ma infatti Wikipedia non finisce mai di stupire. Nel 2002 viene rilanciato Writers Without Home, dal quale a quanto pare abbiamo estratto il singolo che ora ci andiamo ad ascoltare su Music for Youth speciale 4AD. Allora, siamo assolutamente professionali stasera. Ma completissimi, questa è Incurable. Shake the hands, the chain around the band. They're looking for a reason to why I'm still not dead. The medicine's not working, I haven't slept for days. The light is shone right through me, the skeleton is waiting. Curable dei Piano Magic speciale 4AD Records. Siamo rientrati in studio. Si diceva che all'inizio la buona 4AD si chiamava in realtà Axis Record, cambiata per problemi di netta omonimia. E con che cosa mi cambia? Con la 4AD, per l'appunto. L'idea è nata da un flyer usato per catturare l'attenzione sulle nuove uscite, ma di che cosa? Di Axis Records. Il disegnatore, un omonimo sconosciuto per me, non so veramente chi sia, ha usato caratteri tipografici che volevano sottolineare sia i nuovi anni in arrivo per la 4AD Records che l'idea di progresso dell'etichetta, e quindi ha tirato fuori sta bella invenzione. Io adesso non sarò perfettamente intelligente, e questo siamo tutti d'accordo, ma il legame mi sfugge tantissimo anche a me, ma non devi fare a me queste domande, ma metti la mano nella bocca della verità e qualcosa ti dirà. Esatto. Anche tu dicevi una cosa buona, e qui mi collego e poi ti giro la parola. Dei fans interrogati alle 8 della mattina prima di entrare a scuola, gli hanno messo il microfono in faccia e gli hanno detto: tu fan della 4AD Records, quando decreti che finisca il periodo classico della 4AD stessa? E i fans dicono: con l'ultimo album dei Cocteau Twins del 1990. Quindi questo è un parto gemellare, come sono tutte le altre puntate di Music for Youth, visto che stiamo in coppia. La parola a te e agli altri gemelli che sono i Cocteau. Sì, si diceva infatti i Piano Magic rappresentano la seconda ondata di gruppi che vanno su 4AD. La prima ondata è di gruppi, di una serie di gruppi tra cui mi piace citare i Dead Can Dance, che non mettiamo, e Lisa Gerrard in generale, che non mettiamo. Ci volete male? Sì, è capibilissimo. Abbiamo scelto i Cocteau Twins. Cocteau Twins sono uno dei gruppi probabilmente più rappresentativi di 4AD. Si formano nell'82 e registrano per 4AD praticamente tutto, fin dai primi EP praticamente. Si tratta di un duo inizialmente scozzese a cui si va ad aggiungere una vocalist anch'essa scozzese. Si tratta di Elizabeth Fraser. Il gruppo inizialmente gravita in, diciamo, atmosfera Joy Division, Birthday Party, che anche questi sono su 4AD, Sex Pistols o più in generale i Siouxsies, per capirci un attimo. Poi la deriva, diciamo, la deriva pop si fa sentire, e lì nasce un genere a cui io sono particolarmente legato proprio per amore viscerale, che è appunto il dream pop. E infatti l'accostamento Cocteau Twins dream pop fa un po' storia in quello che è la musica moderna. A questo punto voi vi chiederete: perché chiamarsi Cocteau Twins? Beh, il nome... Perché? Grazie Lele per avermelo chiesto, e continuo questa serata di enorme professionalità di Music for Youth. Allora, Cocteau Twins è un nome che i ragazzi prendono da canzone fatta da un gruppo di amici. Il gruppo di amici si chiama Johnny and the Self Abusers. Appunto, tutti si chiederanno: chi sono i Johnny and the Self Abusers? Siccome i Giovanni e gli abusatori di se stessi non era un gran combo, diciamo. Ma anche se abusatori in che senso? Esatto, questa è un'altra grande di mano problema. O di sostanze? Ma io credo di mano e anche di villano. E anche di villano. A quel punto i Johnny and the Self Abusers cambiano nome in Simple Minds. Ah, e eccoli. E la canzone Cocteau Twins cambia nome in No Cure. Però i Cocteau Twins tengono il nome e iniziano a sfornare del gran dream pop. Allora, come dicevo, registrano tutto praticamente su 4AD. Il disco da cui prendiamo questa Lorelei, che è una delle canzoni probabilmente più rappresentative del gruppo, è Treasure. Io andrei a sentirla a questo punto e diamo pure inizio ai lavori e scendiamo in campo per la nazione. Yeah. Rientrati, questi erano i Cocteau Twins. Con che cosa? Con Lorelei, a quanto pare. Sul fronte occidentale di Music for Youth continua la serata etichette con 4AD Rec e siamo arrivati a metà degli anni 80. Esattamente, sì. Tra l'altro, ora che si parlava di Scozia, volevo segnalarvi, facciamoci anche un po' di pubblicità del resto, due recenti ingressi in quello che sarà il festival di Radio Sherwood di quest'estate che vi consigliamo caldamente. Ci saranno i Mogwai. Ciao Mogwai, noi vi stimiamo tantissimo, so che voi non fate altrettanto, peccato. E ci saranno i sempre ottimi Modena City Rambles, che sembrano aver confermato pochi giorni fa. Stanno arrivati del soppiatto, si sono fraccati nel cartellone, si acquattano e aspettano sul palco che noi sventoliamo lenzuoloni pieni di cuori. Esatto. Continua invece la storia della 4AD. Come avevamo detto, si è raggiunti a metà degli anni 80 con 4AD che continua ad evolvere il proprio sound, concentrandosi però sulla scena underground americana. E guarda caso è dove andiamo a parare noi. Eh sì. Si arriva ai Pixies, un altro, non dico pilastro, però mezzo pilastretto, un travertino, sì, per la 4AD, perché qualche CD lo hanno fatto lì, poi si sono svincolati per gli affaracci loro. Tra l'altro 4AD ospita anche alcuni album solisti di Black Francis, che è il cantante dei Pixies. Pixies che non hanno mai ottenuto il grande successo che dovevano ottenere. Gran peccato, perché Surfer Rose è veramente un grosso CD e tra l'altro è il, mi pare sia il primo licenziato sotto 4AD Records. Black Francis sta alla voce, poi tanti belli altri personaggi: Kim Deal, David Lovering, Joey Santiago. Io vorrei conoscerlo. Un nome da wrestler. Insomma, una delle band più importanti e influenti del rock alternativo americano. Hanno preso il nome di Pixies dopo guarda chi Santiago fece una scelta generale a casaccio sul dizionario. La band all'inizio si doveva chiamare Pixies in Panoply, ma poi alla fine si è scelto per Pixies e basta, perché Santiago gli girava le palle e ha detto no, Pixies e basta. E siccome Santiago era il più grosso tra loro, tutti gli altri hanno detto no, va bene, ha detto devo alzare le mani, no stai fermo, ci chiamiamo Pixies. Tra l'altro, già che ci sei, le mani usale per portare il demo in mano a Ivo Vaz Russell. Il nostro buon Santiago l'ha portato dove? Al Bernabéu, no, avevo detto, da Ivo Vaz Russell, che è battuto in una fenomenale, Santiago Bernabéu. Poi vabbè. No, io l'avevo un po' capita, ma sono stato in silenzio. L'hai lasciato in silenzio, perché... ovviamente. Insomma, questo demo che mi finisce nelle mani unte di Ivo Vaz, 8 pezzi scelti poi per la pubblicazione del loro primo EP. Anche Ivo Vaz è un nome da wrestler, secondo sì, me. Sì, abbastanza, finirà morto, sepolto dal nandrolone. Common Pilgrim è il primo EP dei Pixies, il seguito, Surfer Rosa, registrato niente proprio di meno che in compagnia di Steve Albini. Tra l'altro Surfer Rosa, uno degli album preferiti in assoluto da Kurt Cobain. Abbiamo detto di monate, ne abbiamo dette abbastanza, quindi via con la musica. Pixies, abbiamo scelto Where Is My Mind dalla colonna sonora di Fight Club, basta. No, anche perché crediamo di averla già messa. L'abbiamo già messa, sì, e ben due volte. Here Comes Your Man dei Pixies da Surfer Rosa. Francis e soci, questa è Here Comes Your Man dei Pixies, da Surfer Rosa, licenziato sotto la 4AD Records, rientrati in studio una nuova nota. Kent, uno dei due soci della 4AD, la lasciò per fondare un'altra casa, la Situation 2 Records, nel 1981, più o meno gli stessi anni in cui veniva licenziato Surfer Rosa. E invece, quando sono stati licenziati i Pale Saints, caro il mio bel Favotto? I Pale Saints nascono un po' dopo, sono una dei più grandi probabilmente successi, anche se sono sconosciuti ai più. I Pale Saints sono tra i dischi più venduti per 4AD, sono un gruppo di Leeds, nascono nel 1987 e sono inizialmente un trio a cui si aggiunge una seconda voce femminile in un secondo momento. Perché li abbiamo voluti aggiungere? In sostanza perché scelgono di fare un tributo a Tom Waits, che è la loro ultima uscita discografica, una canzone tributo a Tom Waits, e da lì si sciolgono, mi pare fosse il 1996. Per 4AD producono The Comfort of Madness assieme ad un paio di altri album. Da The Comfort of Madness traiamo questo Sight of You, è un singolo secondo me molto carino, pop molto molto dark in qualche modo e molto cupo e molto introspettivo. Tra l'altro, se vi interessa, andatevi a leggere i testi dei Pale Saints, perché a mio avviso quantomeno tendono a essere molto profondi e fanno quantomeno pensare. Pale Saints, 102.2 RSD, Sherwood.it, e questo è come sempre Music for Youth. Size of You dei Pale Saints, rientrati in speciale etichette 4AD Rec per Music for Youth. Si prosegue con la storia. Che cosa si dice? Si dice che nel 1992, ora spaziamo un attimo con i tempi, è stata stretta una partnership con la Warner per gli USA. Warner all'inizio doveva solo distribuire, ma alla fine Ivo Watz ha ceduto buona parte del suo potere, chiamiamolo, di controllo, lasciando a Warner decisioni anche parecchio importanti riguardanti i contratti e quelle che sono le royalties. Infatti, alcuni dei gruppi che attualmente sono su 4AD solo per l'Europa. Un esempio è Saint Vincent, un altro esempio, se non erro, sono i National, almeno non credo per questo ultimo album, ma per i precedenti sono quasi sicuro di sì. Warner per gli Stati Uniti, 4AD Europe. Eh sì. E infatti, guarda caso, chi mi proviene dagli Stati Uniti, la prossima band che adesso vi facciamo conoscere sono i Deer Hunter, il pezzo è Helicopter. Da Atlanta, Georgia, sono quattro bei pezzi di ragazzi che fanno ambient punk, così si sono definiti, non capisco il motivo. Band che è passata attraverso parecchie line-up, cambiate anche a causa della perdita della morte di uno dei membri. Che sfiga. Il nome viene da uno dei membri della prima lineup, il batterista Dan Walton, al quale tra l'altro è stato chiesto anche di smammare subito dopo. Vabbè, ci hai dato il nome, ora basta così. Sì, brutta gente. Deer Hunter, se posso dire che hanno fatto probabilmente uno degli album più belli del 2010. Sì, io l'ho votato, Alcol Indigest era uno dei miei preferiti, sono stato anche insultato in internet, da alcuni di giustezza, da altri per partito preso. Io continuo con la mia opinione. No, secondo me è un grande album. Loro dovevano aprire, anzi hanno aperto, che dovevano aprire, che io ogni volta le che leggo... Le finestre hanno aperto. Smashing Pumpkins, mi viene in mente che è saltata l'unica data che dovevo andare a vedere loro, per cui in realtà hanno aperto parecchi concerti di Smashing Pumpkins e addirittura per i Nine Inch Nails. Sono attivi dal 2001 e Alcol Indigest è il loro quarto LP sulla lunga distanza. Noi possiamo andare ad ascoltarceli. Il pezzo è Helicopter e questi sono i Deer Hunter. My finger to concrete. Helicopter dei Deer Hunter, Radio Sandona 102.2 in streaming su sharewood.it, puntata sulla 4AD Records, una nuova nota sotto il mio naso. Nel 1990 aprì un ufficio a Los Angeles dando il successo a band come Red House Painters e Arrest. Infatti restiamo in America perché c'è da parlare di un'altra band. Sì, restiamo in America, ma facciamo un salto un po', un salto temporale di una decina d'anni. Il quagliotto salta. Esatto, quando 4AD decide di aggiungere al suo roster i Mountain Goats. Chi sono i Mountain Goats? Sostanzialmente è un progetto che nasce in California, Claremont, e nasce dalla mente geniale, se così si può dire, di John Darnell. John Darnell per un grosso periodo produce sotto il combo di The Mountain Goats, ma è a tutti gli effetti un cantante solista e produce qualcosa di molto lo-fi. In un secondo momento pulisce un po' il suono e inizia a lavorare con gente di un certo effetto, John Wooster o John Wooster, il famoso che è già nei Superchunk, poi oppure Palinaro New Age, oppure Annie Clark dei Sam Vincent. Annie Clark, tra l'altro, una delle donne più belle che esista al mondo, secondo me. O sì, John Van der Slice, o quindi John della Fetta. Pensavo Van der Sar, 40 anni si è ritirato, sì, ha giocato l'ultima partita, sì, e ha detto che farà dei documentari sugli uccelli. Molto bene. Lo ha detto lui, non è che mica colpa mia. Jacques Cousteau lo faceva sui pesci, Van der Sar sugli uccelli. Molto bene. A questo punto, cosa andiamo a sentirci dei Mountain Goats? Ci sentiamo un'ultima uscita, in sostanza, che si chiama Never Quite Free, tratto dall'ultima fatica discografica che si chiama All Eternal Deck, che esce per 4AD ma in coproduzione per Merge Records. It's all good to learn that right outside your window there's only friendly fields and open roads, and you'll sleep better when you think you've stepped back from the brink and found some peace inside yourself. Lay down your heavy load, it gets all right to dream at night. Believe in solid skies and slate blue earth below. But when you see him, you'll know. It's okay to find the face to saunter forward. There's no fear of shadows spreading. You'll breathe easier just knowing that the worst is all behind you. And the waves that tossed and raft all night have set you on dry land. It gets okay to praise the day. Believe in sheltering skies and stable earth beneath. But hear his breath come through his teeth. Tell no one what you've seen. It's so good to learn that from right here the view goes on forever, and you'll never want for comfort, and you'll never be alone. See the sunset turning red, that'll wish me well where I go. But when you see me, you'll know. Never Quite Free dei Mountain Goats, 4AD Records per Music for Youth, l'ultimo speciale etichette, gran tiratura limitata, potete controllarne sulla Rough Trade, sulla Matador e tutto un purpurì di etichette che al momento non mi ricordo. Questo ci dà anche l'occasione per ringraziare tutte le persone che sono venute ad aiutarci a parlare di queste etichette, partendo da il sempre bello Massimo Battistella, per passare a Strifu e per arrivare al grandissimo Lorenzo Monni. Ciao Lorenzo, stacce bene, e ti diciamo che inizialmente 4AD doveva essere una fucina di talenti dove testare nuove band che in caso di successo sarebbero state promosse alla Vegas Banquet, la Vegas Group, che è attualmente portatrice di altre etichette come Matador, Rough Trade e XL Recordings. Come si diceva, l'unica band che è riuscita a seguire questo percorso sono stati i Bauhaus, cui prima Favotto ve ne ha parlato. Io il salto, se fosse un po' della quaglia, diciamo, di nuovo, se fosse un possibile salto teorico, lo farei fare a Bon Iver. Jagu Jaguar la farei passare a 4AD, in realtà è già in parte su 4AD per la distribuzione. Abbiamo fatto anche un salto temporale perché siamo nel presente e guardate caso vi presentiamo la traccia nuova di Bon Iver, già passato su queste frequenze però con il progetto Volcano Choir. Il progetto nuovo, cioè il progetto nuovo, si torna alle origini, quindi Bon Iver suona con una band ma suona solista in sostanza, e però sembra che l'esperienza con Volcano Choir si faccia sentire, in quanto c'è molto più a livello di inserti elettronici e forse un po' meno folk nella nuova esperienza. Gran dispiacere, però il CD è buono, io l'ho ascoltato in anteprima, non chiedetemi perché, era con metodi vagamente illegali, però mi è arrivato addosso, dai, mettiamolo sì. Così. Sì, gliel'hanno incartato con del crudo, sappiate. Era nella cassetta della posta. Io non... Bilbilla queste cose le fa. Non ho fatto niente, non ho acceso il computer, avevo solo scaricato in free download Calgary, che è il singolo che andiamo adesso ad ascoltarci, dal nuovo album di Bon Iver, omonimo, per l'appunto questa è Calgary. Don't you cherish me to sleep? Oh. Never keep your eyes closed. Hold me for the bars and clouds. I was only for the father's crown. Pick me with your blessed eyes. Nuovo singolo per Bon Iver, questa era Calgary dal nuovo album Bon Iver omonimo. Continuiamo con la 4AD Records, la parola passa a Favotto che ci illustrerà le meraviglie dei Beirut. I Beirut sono un gruppo che per me rappresenta un po' una scommessa per 4AD, nel senso che sono un po' una divagazione rispetto a quello che è il sound che la 4AD porta avanti più o meno dal 90 in poi, che è un dream pop in sostanza, con declinazioni più folk o più pop a seconda. Però i Beirut sono innanzitutto partono dall'idea di questo ragazzo originario di Santa Fe nel Nuovo Messico, un ragazzo che ispira protezione già nel nome, nel senso che si chiama Zach Condon. Allora, questo hai detto? Condon, ah, okay. Con la N. Lui, avevo capito Condor comunque. Che meraviglia. Comunque sempre di uccelli si parla. Allora, Zach, dopo una infanzia da giovane americano che va al college, decide di abbandonare tutto e inizia a viaggiare l'Europa. In quella si innamora di Parigi e si innamora della musica balcanica, si innamora di Boban Marković per dire, o di Goran Bregovic, e quindi torna negli Stati Uniti e inizia a lavorare alacremente alla stesura di Gulag Orchestra, che è il suo primo lavoro, da cui abbiamo anche tratto la traccia che andremo a sentire. Guarda con come le cose accadono, sì. Noi andremo a Ferrara a sentire i The National, che sono sotto 4AD Records. Chi è il supporto? Beirut, guardala là. Eh sì. Tra l'altro, una cosa che mi sento di dire che secondo me è piacevolissima dell'avventura sonora di Zach Condon è che i Beirut hanno fatto nel tempo alcune apparizioni per una sitcom brasiliana. Da lì è nato un gruppo che si chiama Beirutando, ossia sono più di un gruppo che adatta le... Non ridere su Beirutando, per cortesia. Non sto ridendo. Che adatta le composizioni dei Beirut usando delle melodie tipiche brasiliane. Ora, i Beirut usano abitualmente l'ukelele. I brasiliani si sono, diciamo, dati da fare per generare uno strumento chiamato cavacolele, sì. E questo è più per te, capisci? Più per me. Cavacolele, che potrebbe ricreare la sonorità dell'ukelele, ma tenendo un ritmo più orientato, più do Brasil in qualche modo. Grazie per queste notizie, ho già il saudagi. Esatto. Ci sei tu, ci sono i No and the Whale in sottofondo, ci sono i Beirut e questa è Scenic World e ci dobbiamo muovere perché il tempo corre. Thank you. Zach Condon lo infila su Music for Youth 102.2 Radio Sandonà. Sei una brutta persona, lo sai. Ho sempre saputo. RadioSherwood.it. Noi continuiamo a parlare di 4AD Records. Questa è, trattasi di puntata monografica che il Pio Albergo Triburzio ci permette, ci sponsorizza periodicamente. Questa sera appunto 4AD, etichetta londinese di cui vi abbiamo detto un sacco di cose e che un po' alla volta andiamo a scoprire in tutto quello che è lo splendore del suo roster. Andate a cercarvi il roster perché è veramente qualcosa di inimmaginabile. Si continua, si cambia con Atlas Sound. C'è un'altra cosa a ricordare: solo nel 2008, renditi conto che pagliacci che ci stanno alla Beggars, viene riconosciuto a 4AD il meritato successo, descrivendola come una delle migliori etichette del gruppo. The National e Stereo Lab contemporaneamente entrano, si infilano nel roster. La stessa cosa l'ha fatta più o meno nello stesso tempo il buon Bradford James Cox, nato il 15 maggio del 1982, membro dei Deer Hunter che prima abbiamo sentito, che ha rilasciato 5 LP, alcuni singoli ed altri EP. Pensa che il primo, giusto per complicarmi la vita, si chiama Let the Blind Lead the Voice Who Can See But Cannot Feel. Molto bene. Pensati te. Tra l'altro si chiama Il Suono di Atlantide, questa cosa. Il Suono di Atlantide è un progetto singolo, dunque una costola del progetto Deer Hunter, targata Bradford James Cox, come ho appena detto. Non c'è molto da dire se non che il suo album Logos merita abbastanza e noi ci andiamo a sentire da quell'album la traccia con Noah Lennox in collaborazione, si chiama Walkabout. Questa era Walkabout del progetto Atlas Sound, costola e Deer Hunter. Siamo giunti in conclusione di puntata per la 4AD Records. C'è da ricapitolare un po' tutto: etichetta indipendente fondata nel 1979 da Ivo Watz, Russell, Peter, Kent. Devo cominciare a star veloce. Originariamente era nata come Axis Records, ma ha cambiato nome per omonimia dopo 4 singoli rilasciati sotto Axis. Kent, tra l'altro, se ne va nel 1981 per fondare un'altra casa discografica, la Situation 2 Records. E anche perché la sera è Superman, Peter Kent. Bravissimo, è una delle prime etichette post-punk, inizialmente doveva essere fucina di talenti per poi promuovere altre band, solo Bauhaus sono riusciti a fare questo bel saltino. Non l'avevamo detto, Vaughan Oliver è il disegnatore ufficiale della casa discografica e ad essa ha dato una propria distintiva identità estetica, diciamola così. Da metà degli anni 80 ha continuato ad evolvere il proprio sound concentrandosi sulla scena underground americana e per esempio con i Pixies, cosa che ha continuato a fare anche dal 1992 in poi tramite Warner, che ha preso in parte la distribuzione ma anche qualcosa di più, la classica casa discografica che gli dai un dito e ti fottono un braccio, e hanno cominciato a distribuire. Hai detto fottono in radio. E tu due volte, e non ricominciamo con la storia di Minchiolo, il famoso ottavo nano, perché se no non è più finita, il tempo scorre. Ho detto Minchiolo. Vero che hai detto Minchiolo? Si diceva, è stata stretta una partnership con la Warner per gli USA, con Warner che dovessero distribuire, ma alla fine Ivo Bazz ha ceduto buona parte del suo potere di no acquisto, di controllo, vedi che l'economia mi tocca sempre con le sue mani e non si capisce dove, lasciando a Warner decisioni molto importanti e che tuttora si ripercuotono, perché di band americane sotto 4AD Records ce ne sono parecchie, 4AD che continua la distribuzione europea mentre la Warner si arrangia per l'America. Musicalmente abbiamo più o meno due periodi significativi, uno legato diciamo dalla fondazione per tutti gli anni 80, in cui ci si ispira più probabilmente più al post-punk e alla wave, poi si passa attorno agli anni 90 a una deriva più dream pop, in sostanza con dei gruppi seminali da questo punto di vista come abbiamo sentito i Cocteau Twins o come i Dead Can Dance o eccetera. Nella prima ondata il gruppo sono gli Etcetera. Etcetera è un gruppo bellissimo sono che, sotto fuori che di suona spero, l'ukelele, sì, perfetto. Tutti, tra l'altro sono 16. No, invece nel primo decennio della storia di 4AD si somma l'esperienza di gruppi incredibili come ad esempio si diceva prima i Bauhaus, gli stessi Cocteau Twins e per concludere anche i Dismortal Coil. Chi sono i Dismortal Coil? I Dismortal Coil sono il gruppo con cui andiamo a concludere questa puntata, anzi tra l'altro si coglie l'occasione per ringraziare l'ascoltatore medio per essere stato con noi. Ah, ascoltatore medio, sappi che ci sono solo altre due puntate, la successiva con Sesto Unplugged per presentare il bel festival in quelli Sesto Arre e l'ultima dove vi arriverà in faccia una canzone che non vi aspettate, ma noi ve la piazzeremo. Esatto, abbiamo già parlato con una marchesa che cammina sugli specchi per la nostra ultima puntata. Comunque, tornando ai Dismortal Coil, i Dismortal Coil sono il gruppo, oggi sciolto purtroppo, di Ivo Watt Russell. Ah, eccolo. Ivo Watt decide che la 4AD non gli basta ad un certo punto e genera una specie di supergruppo che diciamo si rifà alla Wave e ai Joy Division in particolare, e si occupa prevalentemente di cover, coverizza non so Tim Buckley, The Apartments oppure i Big Star, che quindi tutti i nomi neanche da poco, e produce un po' di pezzi propri. E a questo punto comunque Ivo Watt dal 1983 in poi lo scioglie nei primi anni 90, tiene questo gruppo appunto di Dismortal Coil. Volete intristirvi? Sentitevi Dismortal Coil. A questo punto noi vi lasciamo con che cosa? Con uno dei pezzi rappresentativi, se si può dire, di questo gruppo. Si tratta di Song to the Siren. E la baracca auguri. Chiude. Esatto, finalmente mettiamo un lucchetto alle nostre bocche e ci vediamo la settimana prossima. Dismortal Coil, Song to the Siren. Questo è uno speciale 4AD Records targato Music for Youth. Drew me loving to to me, let me love you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was fossil? Now my foolish boat is leaning, broken love long on your rock. For you say, touch me not, touch me not, come back tomorrow.